Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Potrebbe essere divertente descrivere il furore di Rassi quando Mosca lo costrinse a firmare in presenza del principe quell'ordinanza. Ma i fatti ci costringono a non perder tempo. Mosca accettò di mettere in discussione tutti i magistrati, nome per nome, e disse di essere disposto anche a cambiarli. Ma forse il lettore è un po' stanco di tutti questi particolari procedurali e anche di tutti questi intrighi di corte. Comunque, la morale che si può ricavarne è questa. Chi ha a che fare con gli ambienti di corte mette in pericolo la propria felicità, se è felice, e in tutti i casi è obbligato a far dipendere il proprio avvenire dagli intrighi di una cameriera. D'altra parte, in America, con la Repubblica, c'è la noia che bisogna stare tutto il giorno a far la corte ai bottegai e diventare stupidi come loro. E niente teatri d'opera da quelle parti. Quando Gina si alzò verso sera, dovette passare un brutto momento. Nessuno sapeva dove fosse andato Fabrizio. Poi, verso mezzanotte, allo spettacolo di corte, le portarono una sua lettera. Invece di costituirsi alla prigione della città dove il padrone era Mosca, Fabrizio era tornato nella sua vecchia stanza della cittadella. Evidentemente si era entusiasmato all'idea di poter di nuovo abitare a due passi da Clelia. Fu un passo gravissimo. Alla cittadella Fabrizio era esposto più che mai al pericolo di essere avvelenato. Quella sua pazzia portò Gina alla disperazione. Gli perdonò d'aver fatto una cosa del genere per amore di Clelia, perché tanto ormai non c'erano più dubbi che tra qualche giorno Clelia avrebbe sposato il ricchissimo marchese Crescenzi. Quella pazzia fece sì che Fabrizio riacquistasse tutta l'importanza di una volta nel cuore di Gina. Se muore, è colpa di quel maledetto pezzo di carta che sono andata a far firmare. Che pazzi gli uomini con la loro mania dell'onore. Come se fosse questione d'onore in un regime assoluto, in un paese dove c'è un tipo come Rassi al Ministero della Giustizia. L'unica cosa da fare era accettare la grazia. E il principe l'avrebbe firmata senza nessuna difficoltà, proprio come ha firmato la convocazione di quel tribunale straordinario. E dopo tutto, che importanza ha che un uomo della nobiltà di Fabrizio sia accusato o meno di aver ucciso lui personalmente e con in mano la spada un istrione come quel Giletti? Poi, subito dopo aver ricevuto il biglietto di Fabrizio, corse da Mosca. Vide che era pallidissimo. «Santo cielo, amica mia!» Non ho proprio la mano felice con quel ragazzo e voi ve la prenderete ancora con me. Posso provarvelo. Ieri sera ho mandato a chiamare il capo carceriere della prigione della città. Vostro nipote sarebbe venuto a prendere il tè da voi tutti i giorni. Il tragico è che né voi né io possiamo andare dal principe a dirgli che abbiamo paura che lo facciano avvelenare, che Rassi lo faccia avvelenare. Un sospetto del genere gli sembrerebbe il colmo dell'immoralità. Se volete, sono pronto a andare a palazzo. Ma so già quale sarà la risposta, ma vi dirò di più. Se volete, sono pronto a fare una cosa che non farei neanche se ci fossi di mezzo io. Da quando sono al potere in questo paese, non ho fatto morire nessuno. E voi sapete che da questo lato sono talmente stupido che certe volte, verso sera, mi vengono ancora in mente quelle due spie che una volta ho fatto fucilare con un po' di leggerezza in Spagna. Dunque, volete che tolga di mezzo Rassi? Fabrizio sta correndo un pericolo terribile. Perché tra l'altro Rassi sa benissimo che può servirsi di lui per farmi sloggiare. A Gina questa proposta piacque moltissimo, ma nulla accettò. Non voglio, disse a Mosca, che quando saremo a Napoli sotto quel bel cielo vi vengano delle brutte idee la sera. Ma mi sembra che abbiamo poco da scegliere, amica mia. Che cosa sarà di voi, che cosa sarà di me se Fabrizio si ammala e muore? Ricominciarono a discutere animatamente. Alla fine Gina disse: Rassi deve la vita al fatto che io preferisco voi a Fabrizio. No, non voglio rovinare tutte le serate che passeremo insieme da vecchi. Poi la duchessa corse alla cittadella. Fu un vero piacere per il generale Fabio Conti poterle citare il testo delle disposizioni militari secondo le quali nessuno poteva entrare in una prigione di Stato senza un permesso firmato dal principe. La situazione era ancora peggiore di quanto lei pensasse. Il generale Fabio Conti aveva considerato l'evasione di Fabrizio come un insulto fatto a lui personalmente. quando se l'era visto tornare alla cittadella, non avrebbe dovuto farlo entrare, dato che non aveva nessun ordine in proposito, ma aveva pensato: è il cielo che me lo manda, così potrò cancellare il disonore e evitare il ridicolo, se no sarebbe stato un brutto colpo per la carriera. È un'occasione che non devo lasciarmi scappare. Faranno in modo di assolverlo, sicuramente, e allora mi restano solo pochi giorni per vendicarmi. La ricomparsa del nostro eroe gettò Clelia nella disperazione. Prima pensò che fosse una visione mandata dal cielo per punirla. Poi si rese conto della tremenda realtà. L'hanno preso, pensò. È finita. Le venne in mente tutto quello che aveva sentito dire alla cittadella dopo l'evasione, quando anche gli ultimi secondini si sentivano offesi a morte. Guardò Fabrizio. E in quello sguardo, senza che lei lo volesse, c'era tutta la passione che stava torturandola. Continuava a guardarlo e si sentì male. Cadde su una sedia che era accanto alla finestra. La sua faccia posava ora sul davanzale. Aveva continuato a guardare Fabrizio fino all'ultimo e la sua faccia era ancora rivolta verso di lui e lui poteva vederla. Poi Clelia aprì gli occhi e lo guardò subito, ancora, e vide che stava piangendo. Ma Fabrizio piangeva di gioia, perché lei non lo aveva dimenticato. Rimasero così per un po', poveri ragazzi incantati a guardarsi. Poi Fabrizio si mise a cantare, come se stesse accompagnandosi con la chitarra. «È per vedere voi che sono tornato in prigione. Mi faranno un nuovo processo». Fu come se queste parole avessero risvegliato in Clelia tutta la sua virtù. Si alzò in fretta, si coprì gli occhi con le mani, poi a gesti, tutta eccitata, cercò di fargli capire che non doveva più rivederlo, che era un voto fatto alla Madonna, che se lo aveva guardato era solo perché se n'era dimenticata. Fabrizio cercò ancora di dirle che l'amava e lei scappò via, indignata, giurando che non l'avrebbe mai più rivisto, perché era proprio così che diceva il voto fatto alla Madonna. I miei occhi non lo rivedranno mai più. aveva scritto quelle parole su un pezzettino di carta che Don Cesare le aveva dato il permesso di bruciare sull'altare mentre lui diceva messa al momento dell'offertorio. Ma nonostante tutti i suoi giuramenti, ora che Fabrizio era di nuovo in prigione, Clelia era tornata alle vecchie abitudini. Di solito se ne stava tutto il giorno chiusa nella sua stanza, da sola, ma ora, appena riuscì a riprendersi dall'emozione che aveva provato a rivedere Fabrizio così di colpo, si mise a girare per tutto il palazzo. Sembrava che dovesse rinnovare la conoscenza con tutti gli amici che aveva fra i dipendenti. Tornando nel suo appartamento, Clelia incontrò poi il medico della prigione e quello, una specie di galantuomo timido, le disse con gli occhi fuori della testa che Fabrizio era molto malato. Clelia doveva fare uno sforzo per non cadere. «Fabrizio è morto!» pensò Clelia. «L'hanno avvelenato con il pranzo o lo faranno domani!» Andò di corsa nella stanza degli uccelli. Aveva deciso di parlargli cantando, accompagnandosi al piano. «Mi confesserò», pensava. «Dirò che se ho violato il mio voto, l'ho fatto per salvare la vita di un uomo. Mi perdoneranno». Ma entrando nella stanza, vide che alla finestra di Fabrizio i vecchi schermi di legno erano stati sostituiti da tavole legate all'inferriata. Disperata, cercò di avvisare Fabrizio cantando, o piuttosto gridando qualche parola. Nessuna risposta. Già un silenzio di morte regnava nella Torre Farnese. «È finita», pensò. Scese di corsa le scale, fuori di sé. Poi tornò di sopra a prendere qualche soldo dei suoi orecchini di diamanti e passando prese anche dalla credenza il pane avanzato. «Se è ancora vivo, il mio dovere è salvarlo». Andò con aria altera verso la porticina della torre. Era aperta. Avevano soltanto sistemato da poco 8 soldati nel salone delle colonne, a pian terreno. Clelia guardò i soldati, decisa. Pensava di parlare al sergente, ma non c'era. Allora si mise a correre su per la scaletta a chiocciola che girava intorno a una colonna. I soldati rimasero a guardarla sbalorditi, ma non ebbero il coraggio di dirle niente. Forse erano intimiditi da quello scialle di pizzo, da quel cappello. Al primo piano non c'era nessuno, ma al secondo, all'inizio del corridoio lungo il quale si alzavano 3 inferriate e che portava alla stanza di Fabrizio, trovò un secondino che non conosceva e che le disse affannosamente: «Non ha ancora mangiato». «Lo so bene», disse Clelia in tono sprezzante. Quello non ebbe il coraggio di fermarla. Seduto sul primo dei 6 gradini di legno che portavano alla stanza di Fabrizio, c'era un altro secondino, uno vecchio, rosso in faccia. Le disse brusco: «Signorina, avete un permesso del governatore? Perché? Non sapete chi sono io?» Clelia era fuori di sé, si sentiva spinta da un impulso soprannaturale. «È mio marito che devo salvare», pensava. Thank you. Lei si buttò contro la porta. C'era una chiave enorme nella serratura. Per girarla le ci volle tutta la sua forza. Il secondino, mezzo ubriaco, l'aveva presa per la gonna. Lei si precipitò nella stanza, sbatté la porta, lacerando la gonna, e mentre il secondino spingeva per entrare, trovò un paletto e riuscì a chiudere. Poi si voltò. Fabrizio era seduto a un tavolino apparecchiato per il pranzo. Clelia si buttò sul tavolino, lo rovesciò, prese Fabrizio per un braccio, gli disse: «Hai mangiato?» A sentirsi dar del tu, Fabrizio andò in estasi. Nella sua emozione, Clelia stava dimenticando per la prima volta tutto il suo ritegno di donna. Lasciava vedere il suo amore. Fabrizio non aveva ancora incominciato quel pasto fatale. La abbracciò, si mise a baciarla. Doveva essere avvelenata quella roba, pensava. E se le dico che non ho neanche mangiato un boccone, torna fuori la religione. E Clelia scappa via. Ma se crede che sto agonizzando, riuscirò a convincerla a restare qui. Vuole mandarlo a monte anche lei, quel maledetto matrimonio, ne sono sicuro. E adesso il caso ci offre una splendida occasione. Tra un po' qui fuori ci saranno tutti i secondini, butteranno giù la porta e ci sarà un tale scandalo che forse Crescenzi si spaventerà e il matrimonio andrà a monte. In quell'attimo di silenzio, Fabrizio sentì che Clelia stava già cercando di liberarsi dal suo abbraccio. «Non mi fa ancora male», le disse, «ma ben presto il dolore mi farà cadere ai tuoi piedi. Aiutami a morire». «Mio unico amore», gli disse Clelia, «io morirò con te». E lo stringeva tra le braccia convulsamente. Era talmente bella, così semisvestita, abbandonata alla passione, che Fabrizio non riuscì a resistere. Fu quasi un impulso involontario e lei si lasciò andare. Poi, nell'entusiasmo appassionato e generoso che viene dopo l'esplosione di una gioia infinita, lui fece la sciocchezza di dirle: «Non voglio che un'indegna menzogna venga a sporcare i primi attimi della nostra felicità. Senza il tuo coraggio non sarei più che un cadavere, o sarei qui a contorcermi tra dolori atroci. Ma quando sei entrata stavo mettendomi a mangiare e non li avevo ancora toccati quei piatti». Dal corridoio veniva un gran fracasso. Aprivano e chiudevano rumorosamente le tre inferriate. Urlavano: «Stanno venendo a uccidermi! Addio, Clelia! Io benedico la morte perché mi ha portato alla felicità». Clelia lo abbracciò ancora. Poi gli diede un pugnaletto dal manico d'avorio con una lama non più lunga di quella di un temperino. «Non lasciare che ti uccidano!» gli disse. «Difenditi fino all'ultimo. Se Don Cesare sente tutto questo rumore, vedrai che ti salverà. È coraggioso, buono. Vado a chiamarlo». E si precipitò verso la porta. Poi, la mano sul paletto, voltò la testa, tutta esaltata, e disse: «Se non ti uccidono, lasciati morire di fame, ma non toccare niente, portati sempre dietro questo pane». Il rumore si stava avvicinando. Fabrizio prese Clelia per la vita, la spostò, poi aprì la porta furiosamente, si precipitò giù per gli scalini con in mano il pugnaletto e fu quasi sul punto di bucare il panciotto del generale Fontana, aiutante di campo del principe. Il generale fece un salto indietro, terrorizzato, gridò: «Ma signor Del Dongo, io vengo a salvarvi!» Fabrizio risalì i gradini, mise la testa nella stanza, gridò: «Fontana viene a salvarmi!» Poi tornò dal generale per spiegarsi con calma. Lo pregò gentilmente di perdonargli quel primo impulso di collera. Gli disse: «Volevano avvelenarmi. Quella roba che c'è in camera mia è avvelenata. Sono stato abbastanza furbo da non toccar niente, ma devo confessarvi che questi sistemi li trovo decisamente sconcertanti. Quando vi ho sentito salire, ho pensato che stessero venendo a darmi il colpo di grazia, a pugnalate. Signor generale, vi prego di dar ordine che nessuno entri nella mia stanza. Finirebbero per togliere di mezzo i cibi avvelenati e invece il nostro principe deve sapere tutto». Il generale, pallidissimo, sbalordito, ripeté l'ordine richiesto da Fabrizio ai capi secondini che lo seguivano, e quelli, tutti confusi a vedere che la faccenda del veleno era stata scoperta, si affrettarono a scendere. Andavano avanti come se volessero lasciar libera la scala così stretta all'aiutante di campo del principe, ma in realtà cercavano solo di battersela il più presto possibile. Con gran stupore del generale Fontana, Fabrizio, che voleva dar tempo a Clelia di nascondersi al primo piano, si fermò poi un buon quarto d'ora sulla scala a chiocciola che portava al pian terreno. Era stata la duchessa, dopo una serie di manovre pazzesche, che era riuscita a far mandare il generale Fontana alla cittadella. Gina incontrò Fabrizio e il generale Fontana che stavano attraversando a piedi il ponte levatoio della cittadella. «Hai mangiato?» «No, per miracolo!» Lei gli buttò le braccia al collo e svenne. Restò svenuta un'ora. Prima sembrava che stesse addirittura per morire, poi che fosse sul punto di perdere la ragione. Al processo di Fabrizio, l'unico inconveniente fu che i giudici volevano assolverlo per acclamazione fin dalla prima seduta. Mosca fu costretto a ricorrere alle minacce per ottenere che il processo durasse almeno 8 giorni e che i giudici si preoccupassero di ascoltare tutti i testimoni, sempre gli stessi, pensò. Il giorno dopo l'assoluzione, Fabrizio Del Dongo prese finalmente possesso della carica di gran vicario dell'arcivescovo Landriani e il principe firmò tutti i documenti necessari alla nomina di Fabrizio coadiutore con diritto di successione, nomina che diventò effettiva 2 mesi dopo. Tutti continuavano a complimentarsi con la duchessa per l'austero contegno di suo nipote, ma in realtà Fabrizio era disperato. Il giorno dopo la sua liberazione, mentre il generale Fabio Conti, destituito, aveva dovuto andare in esilio e mentre la duchessa trionfava, Clelia si era rifugiata in casa della contessa Contarini, sua zia, una donna ricchissima, vecchissima e che pensava soltanto a curarsi. Clelia avrebbe potuto incontrarsi con Fabrizio, ma confrontando il suo modo di fare di una volta a quello di adesso, si sarebbe potuto pensare che lei non lo amasse più. Ora che la sua vita non era più in pericolo. Fabrizio non si limitava a passare e ripassare davanti alla casa della zia di Clelia più spesso che poteva, curandosi appena di salvare le apparenze. Con molta difficoltà era anche riuscito a prendere in affitto un appartamentino in faccia alle finestre del primo piano di Palazzo Contarini. Una volta Clelia, senza pensarci, si era affacciata per vedere passare una processione, ma si era tirata subito dentro come se avesse provato uno spavento terribile. Aveva visto Fabrizio, vestito di nero, ma come un povero operaio, che la guardava da una delle finestre di quella stamberga e al posto dei vetri quella finestra aveva della carta oleata, come nella sua stanza alla Torre Farnese. Fabrizio avrebbe voluto a tutti i costi convincersi che Clelia lo sfuggiva solo perché suo padre era caduto in disgrazia per colpa della duchessa, ma lui lo sapeva benissimo, c'era un'altra ragione alla base di quel distacco e niente poteva distrarlo dalla sua malinconia. Sembrava che non gliene importasse niente né della libertà né delle sue cariche, le prive che avesse occupate in vita sua, né della sua posizione in società, né di come lo corteggiavano assiduamente tutti i sacerdoti e i fedeli della diocesi. Il suo delizioso appartamento a Palazzo San Severino non bastava più con tante visite. E la duchessa fu molto contenta di dovergli cedere tutto il secondo piano del suo palazzo e 2 belle sale al primo. C'era sempre un'infinità di gente che aspettava il momento di ossequiare il giovane coadiutore. La sua nomina a successore designato dell'arcivescovo aveva avuto un effetto portentoso. La fermezza del carattere di Fabrizio, che una volta scandalizzava moltissimo i cortigiani più poveri e più stupidi, veniva ora esaltata tra le sue virtù. E sua madre, una donna molto poco romantica ormai, ne fu talmente spaventata che pensò che alla Torre Farnese potessero avergli fatto prendere qualche veleno a effetto ritardato e, malgrado la sua infinita discrezione, si sentì in dovere di chiedergli perché fosse così tremendamente triste, ma Fabrizio si mise a piangere e non disse niente. Mosca aveva fatto fare una bella traduzione della genealogia della famiglia Valserra del Dongo, pubblicata anticamente in latino dall'arcivescovo omonimo di Fabrizio. La fece stampare in edizione di lusso, con il testo latino a fronte e con una serie di splendide litografie fatte a Parigi e ricavate dalle incisioni originali. La duchessa aveva voluto che un bel ritratto di Fabrizio fosse messo di fronte a quello dell'antico arcivescovo. E il libro fu pubblicato come se fosse un'opera scritta da Fabrizio durante il suo primo soggiorno in prigione. Ma nel cuore del nostro eroe tutto era spento, anche la più naturale vanità. Non si degnò di leggerne neanche una pagina di quell'opera che gli era stata attribuita. Per la sua posizione in società, comunque, fu obbligato a offrirne al principe un esemplare sontuosamente rilegato. E il principe, che si sentiva in dovere di risarcirlo per la morte atroce che aveva rischiato tanto da vicino, gli concesse il privilegio di poter essere ricevuto senza doverne fare formale richiesta, privilegio che dà diritto al titolo di eccellenza. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it